известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. I urge you to fix this mess, because let me tell you something, we are all fed up, and if you don't fix it, we will. Vi dico una cosa, riparate questo casino che avete fatto, perché vi voglio informare che siamo stufi, marci, e se non lo riparate voi, lo ripariamo noi. Queste sono le parole del senatore Charles Schumer, democratico dello Stato di New York, rivolto al direttivo della AIG, la grande sigla assicurativa al centro dell'uragano che sta battendo su Washington e le città dell'economia, in fondo anche sull'America intera in queste ore, e non se ne fa altro che parlare. E mi sembra che dalle nostre parti in realtà abbia la meglio, no? Come dire, il nostro italico scetticismo, quello che fa sì, a fronte di una situazione nostra nazionale dove magari non sempre proprio tutti gli impegni presi vengono onorati, però poi dopo, insomma, se andiamo a leggere nelle righe del capitalismo americano, diventiamo forse anche un po' più legalitari del necessario. Diciamo che lì i contratti si rispettano, perché il capitalismo è quello: se non si rispettano i contratti, che capitalismo è? Ma forse bisognerebbe dire anche che i contratti, per carità, si rispettano. Io rispetto anche il contratto con il mio idraulico, ma insomma, ma se il lavoro lo fa, no? I contratti vanno rispettati, ma forse i contratti vanno anche onorati, e attorno a tutto ciò sta girando seriamente il dibattito in queste ultime ore, in queste ultime giornate. E soprattutto chi paga? Qui paga Pantalone, qui paga lo Stato, paga lo stesso agente straordinario che ha pagato la salvezza a caro prezzo, perché poi lo Stato vuol dire non noi, che siamo in questo caso di nuovo sanamente italiani, ma gli americani, sì, i contribuenti americani, sì, sono loro che hanno messo sul tavolino 160-170 miliardi di dollari per riportare a galla una sigla ormai decotta, sprofondata nelle acque più profonde della finanza americana come AIG. E insomma, veder poi girare 160 milioni di bonus non è granché, ed è un peccato. Ancora vi dico che tutti gli articoli interessanti stiano uscendo proprio adesso, nelle ultime ore, negli ultimi minuti. Che ore? Negli ultimi minuti. Noi li stavamo leggendo per voi sui principali giornali americani, e hanno il tono un po' di Charles Schumer: non molla la presa nessuno. E io ho un po' la sensazione, per quel poco che conosco gli americani, che a questo punto poi è difficile, no, che tutto ciò sia solo così propaganda, un atteggiamento di Obama e soci tanto per far vedere che loro, no, insomma, se si va così avanti poi si rischia di fare una delle figure più barbine della storia americana, ma non solo, a dire vabbè, tenetevi i vostri soldi, abbiamo scherzato. Anche perché stanno scendendo in campo ormai compatti reggimenti interi di legulei, studiosi, analisti della legge americana. Poi non ci scordiamo una cosa: Obama, bene o male, da lì viene, no? Dalla Harvard Law School, qualcosa vorrà dire, qualcosa avrà imparato. Andate a leggervi la sua biografia, viene fuori che era un esperto, volete sapere di che cosa? Di contratti. E l'amico suo, Tim Geithner, che si occupa del tesoro, sempre da quelle parti viene, lavorava nelle corporation fino a pochi giorni fa, lo saprà bene o male, o si espongono a tutto ciò solo per fare la parte dei buoni. Io sinceramente comincio a non crederci, ma soprattutto comincio a non crederci dall'alto della mia totale inconsapevolezza, per carità, sull'argomento, ma se mi vado a leggere quello che dicono invece gli esperti di turno, e c'è in questo momento in corso, per esempio sul sito del New York Times, una tavola rotonda di grande interesse intitolata "Quando i contratti relativi ai bonus possono essere rotti", e mi sembra che un po' tutti dicano la stessa cosa alla fin fine. Occhio a dire, per carità, se c'è la firma sotto il contratto dobbiamo solo che da pagare, ma insomma non è, mi sembra che siano proprio così le cose che leggo scritte qui. Io leggo scritto abbiamo fatto un accordo, vediamo se le condizioni alla base dell'accordo sono state rispettate. Se anche chi a questo momento si sta ritirando, per esempio, un bonus da $1 milioncino, che è la media di quelli che stanno distribuendo in questo momento ai trader della AIG, sono poi stati meritati. Che cosa vuol dire? Che bisognerebbe leggerli questi contratti. È l'invocazione che fanno tutti gli esperti in queste pagine. Dicono: guardate, fateci vedere questi contratti, poi ve lo diciamo noi se è vero che costerebbe di più, se è vero che è impossibile o se è vero invece che è possibile, perché c'è un problema molto serio che in America si chiama performance, e bisogna anche vedere se le performance a cui questi bonus, no, sarebbero in un certo senso di compenso, di riconoscimento, sono state effettivamente raggiunte dagli individui incaricati a svolgerle. Glenn Greenwald, costituzionalista, per esempio, scrive: guardate che ogni giorno in America, nell'America capitalista, si discute di contratti che non sono rispettati, e sapete dove? Nelle aule di giustizia, dove gente che ha stabilito un determinato contratto dice: aspetta un attimo, tu non hai mica fatto quello per cui pretendi che io ti paghi, vediamo, parliamone. E ci sono giudici che in questo senso poi danno il loro parere. Non è che l'America e il capitalismo americano si basa sul fatto che si paga sempre, perché sennò sarebbe un capitalismo stupido. E poi c'è anche chi, come Deborah Post, che è un'altra costituzionalista e esperta di contratti, dice: bisogna stare attenti all'uso delle parole. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di abrogare dei contratti o stiamo più costruttivamente parlando di modificare dei contratti che magari, per l'appunto, non rispondono più alle condizioni originali e in quanto tali non possono più esistere, perché per esempio chi paga non c'è più, chi paga è qualcun altro. Insomma, tante voci alle quali si unisce, sapete quale? La più in attesa, forse non la più in attesa, perché fin dall'inizio aveva dato segni così di posizionamento particolare, ed è proprio il CEO, l'amministratore delegato della AIG, si chiama Edward Liddy, ed è una persona che si sta rivelando assai interessante nelle sue attuali dichiarazioni, come quando per esempio poche ore fa ha detto che secondo lui è stato repellente, questa è la parola che ha usato, è stato repellente dover versare dei bonus di oltre $1 milione ai top manager di AIG. Lo dice testuali parole, lo dice al Washington Post, anzi lo scrive su Washington Post, dice: che sia chiaro, se fossi stato io l'amministratore delegato a quel momento, perché in realtà Liddy è stato assunto soltanto a settembre con le frittate già fatte, io non avrei mai accettato questi bonus. È stato repellente dover fare questi pagamenti. Noi però abbiamo concluso che i rischi per la compagnia e al di là per il sistema finanziario e l'economia sarebbero stati elevati in una maniera inaccettabile. Però ormai, come dire, l'urlo di rabbia, di scandalo, di indecenza è stato emesso, e noi a questo punto vogliamo proprio vedere dove arrivano coloro che l'hanno prodotto, ovvero non solo il senatore Charles Schumer dello Stato di New York democratico, ma lo stesso presidente Barack Obama e Larry Summers e Tim Geithner. Ormai hanno detto che molti sono i modi per far sì che quei soldi non prendano quella strada. Il modo più semplice è stato indicato pochi minuti fa. In realtà quei soldi verrebbero semplicemente trattenuti sulla prossima tranche di miliardi e miliardi di dollari, sono tranche da $30 miliardi che lo Stato dovrebbe versare alla AIG per favorire la sua prosecuzione in vita. Ma se quei super bonus continuano a prendere la strada sgradita all'amministrazione, quei 165 rotti milioni di dollari verrebbero semplicemente dedotti dal monte di aiuti che lo Stato si è impegnato a versare a questa sigla. Ecco, il Congresso sta tentando con tutti i mezzi di recuperare, scrive un'agenzia, i 165 milioni, e Tim Geithner ha detto che la somma, appunto, verrà dedotta da $30 miliardi di aiuti che lo Stato deve versare. Sarà legalmente impossibile? Sarà possibile? Una scappatoia? Un accordo si delinea? Come vi diciamo, ormai la questione è diventata, oltre che una faccenda di soldi, una faccenda di contribuenti incavolati, è diventata anche una faccenda molto più seria, di fondo, no? di una morale che vuole tener conto dell'economia e della finanza nazionale, e vuole che il piatto sia unico, il tavolo solo, sia uno solo. Vediamo come va a finire, ma davvero la questione sta ormai assumendo dei toni epocali sui quali credo che anche la temperatura dell'attuale amministrazione, a metà dei suoi primi fatali 100 giorni, saprà raccontarci meglio, no? Di che pasta è fatta. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow. Poi abbiamo anche un ascoltatore fatalista che ci ha appena mandato un SMS il cui tono non saprei che definire, dice? Anzi ti invito a definirlo tu, e dice: ma gente, ma non vi sembra esagerata tutta sta caciara per 160 milioni a fronte che sarà di quanto mai gli americani dovranno sborsare per coprire il bailout? Te l'ho detto, caro ascoltatore, la caciara ormai, oltre che non è immotivata per definizione quando si tratta di una questione di questo genere, no? Ci sono gli interessi di tutti, dei contribuenti, delle aziende, del sistema in se stesso, ma poi qui la questione ormai è diventata una questione di principio, no? Si vuole connettere etica e non dico capitalismo perché sarebbe una parola grossa, ma etica e rivisitazione di una economia ventunesimo secolo. Ci riusciranno? Questo è il punto, comunque forse è solo disincanto quello dell'ascolto, ma è rassegnato di fronte a questo cancano. Ma infatti poi il resto è tutto un fiorir di Alitalia, non so come dire. Perché il mondo cambia, ventunesimo secolo inoltrato e le cose, le abitudini, i rituali non sono più gli stessi, ce ne stiamo rendendo conto parlando di economia, ce ne rendiamo conto anche parlando di informazione. Ieri è arrivata una notizia che facendo questo mestiere ci ha colpito, anche perché il giornale in questione lo conosciamo bene, lo abbiamo letto per anni, era purtroppo assai originale anche nel suo approccio, piuttosto liberal, tipico della West Coast, Nord West Coast. Si chiamava il Post Intelligencer, PI per tutti gli abitanti di Seattle. Andavi dal giornalaio e gli dicevi: me dai il PI? E ti davano questo grosso quotidiano che da ieri non esce più. Hanno licenziato 200 e rotti dei 250 giornalisti, ne sono rimasti una ventina, faranno una edizione solo web, sopravviverà anche questo? Boh, non si sa, si vedrà. Nel frattempo ci sono giornali della portata del Chicago Tribune e Los Angeles Times, ovvero la vera storia del giornalismo americano, in bancarotta. C'è il New York Times che si è costruito un grattacielo col concorso di Renzo Piano, ma non sa come pagarlo, l'ha subito ipotecato. Altri hanno già trasferito le loro armi e bagagli sulla rete, come il Christian Science Monitor. La situazione della stampa americana è nerissima, soprattutto della carta. Se il web è un punto interrogativo, la carta brucia. E allora vi abbiamo chiesto: come la vedete? Siete pronti ad accontentarvi esclusivamente di un quotidiano online? Avete l'idea che ci sarà presto una nostalgia, no, per quella sana lettura del giornale? Ah, in un bel pomeriggio di primavera al tavolino del bar con l'orzata davanti, o il mondo va così e al progresso non si resiste? E allora, mentre qui... Da girone dantesco, io leggo la sentenza che ha emesso su Facebook. Vogliamo fermarci a parlare? Io sono favorevolissimo della temperatura al caldo che c'è qui in studio. C'è Roberto che ha emesso subito la sua sentenza. Ehi ragazzi, ma sto scrivendo su Facebook commentando una notizia in tempo reale? Sì, il cartaceo è estinto. Eccolo. Requiescant. Esatto. Poi c'è Fabio, anche lui senza pietà. Negli anni scorsi il settore dell'informazione si è gonfiato troppo, specialmente qui in Italia. E dagli anni 80 che editori grandi e piccoli sforano migliaia di pagine inutili. Poi c'è Daniele che guarda avanti, il passaggio dall'edicola alla rete sembra inevitabile, prima o poi per tutti i giornali. Forse avviene in leggero anticipo rispetto alla tecnologia della lettura e poi c'è una bella immagine finale. Quando gli schermi pieghevoli saranno diffusi come i cellulari, ci si siederà al bar, si appoggerà vicino al caffè il giornale personale, come se fosse quasi un giornale vero. Interrompo perché c'è un alert su Fox News che dice che sempre AIG ci sarà presto un decreto che richiederà la pubblicazione, che vengano resi pubblici tutti i contratti di cui dalle abbiamo parole si passa parlato fatto, fino adesso, contratti anche fra lo Stato federale e AIG e suppongo anche fra AIG e manager. Insomma, sta venendo i nodi, stanno venendo al pettine, vediamo. Intanto c'è Faber che ci scrive: io sono un lettore bulimico di giornali online, anzi cerco tutti quelli che danno segnali su Facebook come New York Times e Financial Times che ti sbattono lì la notizia sul desktop. E ancora Flavio: uso e apprezzo internet dal 96, sono abbonato a quotidiani via internet, ma quando ci sono articoli che apprezzo mi interessano in maniera particolare compro il giornale di carta. Doriano: se la carta stampata va nel web c'è il pericolo che vada a inquinare quella poca informazione giornalistica che c'è. Giulio: al tavolino del bar si leggeranno le notizie su un palmare. Ecco il tecnologico Giulio. Germana: questa è una notizia esiziale anche per quanto riguarda la connessa diminuzione del numero di giornalisti, credo l'informazione solo online, se questa è la tendenza sarà sempre solo per pochi. Roberto: oggi siede sulla linea di Beppe Grillo, noi qua. Non lo sapevamo. Va bene, la cosa mi preoccupa, ma pure a noi sinceramente. Prego. Allora, Sergio: i giornali di carta faranno la fine dei dischi, vinile e addirittura CD. Forse questo tocco ti tocca a tua volta, Stefano, insomma, il riferimento al vinile di una volta. Per quanto invece vinile torna. Torna, quindi torneranno anche i giornali di carta, chi lo sa. Per quanto riguarda i contenuti, l'articolo che finisce su carta è in genere più curato di quello che finisce sul blog, ma anche molto meno puntualmente criticabile, questo è un bel tema. Poi c'è Enrico che dice: non mi tange più di tanto la notizia, spero solo non vadano a sparire anche i libri. Ci sono i lettori, quei lettori tipo Kindle, una delizia per gli appassionati. Finiamo, l'ultima raffica. Luigi: è risaputo che in Italia la carta stampata sopravvive solo grazie ai contributi dati alle cooperative in base al numero di copie stampate, giusto? Antonella: sono anni che ho smesso di leggere i giornali di carta, tengo sempre aperte un paio di pagine di notizie italiane su internet e quando raramente vedo qualcosa interessante approfondisco. Mukeba: in America resisteranno solo i più grossi giornali, già se andrebbe bene, e alcuni locali, il resto sul web, non ci sono alternative. Giorgio: dobbiamo prendere atto che Beppe Grillo è bloccato perché lo dice da anni, aveva ragione quando profetizzava una debacle della carta stampata, ma non è stato Beppe Grillo. L'hanno detto in tanti. L'hanno detto personaggi ben più approfonditi. E chiudo con Roberto che dice: sono assolutamente nostalgico, quanta bella letteratura sul sedersi al tavolino con in mano la fresca copia del quotidiano preferito che emana ancora un sano odore di inchiostro. Piece of grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair, alligator lizards in the air, in the air. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Dunque, dibattito su Fox in questo momento. Obama dovrebbe licenziare i suoi comandanti in area economica, discutono vari espertoni sul futuro di Geithner, da sempre un po', come dire, con un piede fuori dalla porta, no? Vedremo. Poi messaggi SMS, ci scrivete una forte ondata, una sorprendente ondata di amanti del profumo della carta, non so come dire. Si sono spaventati in tanti a sentir dire che saltano per aria giornali di quella portata in America, dove non è che c'è lo Stato, almeno per quello riguarda i giornali, a pagare la salvezza dei grandi quotidiani, Chicago Tribune, Los Angeles Times e il Seattle Post Intelligence, vi abbiamo raccontato poco fa. Poi altri messaggi, all'Italia a tutto spiano. Poi c'è un ascoltatore che dice: continuo a seguirvi, ma l'anima redneck comincia a prendere sopravvento. Redneck a chi? A noi? Accidenti, da sempre Radio 24 è sempre più Radio Elefante. Sto aspettando di sentir dare la colpa a Obama per la guerra in Iraq. Ma forse non hai ascoltato con attenzione, insomma, quei 12 minuti di chiacchiere che ho fatto in apertura. Mi sembra di aver detto cose diverse da quelle che questo ascoltatore ha inteso. Abbiamo un collegamento stabilito? Bene, perché stiamo cambiando argomento, perché a proposito di Iraq c'è una sigla che quanti tra voi hanno seguito le storie della spedizione americana in Iraq e in genere delle cronache del Medio Oriente che riguardano le popolazioni locali, gli americani, ma non solo. Una sigla che sicuramente suonerà familiare, questa sigla è Blackwater. Ebbene, è arrivato il mancato rinnovo del contratto tra il Dipartimento di Stato americano, tra il governo americano e la Blackwater come società principale titolare del compito di fornire contractors, ovvero forze di sostegno non militare nel corso della occupazione dell'Iraq. Il Washington Post scrive che a subentrare alla Blackwater, che a più riprese è rimasta coinvolta in faccende poco chiare, se non incidenti veri e propri, in certi casi anche molto gravi, potrebbero subentrare due piccole aziende già impegnate in Iraq che si chiamano Dyncorp e Triple Canopy, piccole aziende, ma ci credo poco, che per necessità addestrative di sicurezza potrebbero di fatto ricorrere però all'arruolamento di parte del personale della Blackwater già presente in Iraq. Allora cambia solo il distintivo sulla spallina. Il governo iracheno ha posto comunque il veto alla permanenza di Blackwater nel paese dopo il famoso incidente del 2007 in cui rimasero uccisi ben 17 civili, e nel frattempo si apre un nuovo fronte, da questo punto di vista tutto da scoprire, se vogliamo dire così, per esagerare, che si chiama Afghanistan e si chiama rinforzo delle attività in Afghanistan fortemente volute dall'amministrazione Obama. Questo è il quadro. L'esperto con cui ne parliamo si chiama Carlo Biffani, lo avete già sentito altre volte qui in trasmissione a Jefferson, è il direttore di Security Consulting Group, una società di sicurezza attiva in vari fronti di guerra, tra cui Iraq e Afghanistan, ma anche Italia. Conosce bene quegli scenari e io lo saluto con piacere. Buon pomeriggio, Carlo. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. Insomma, ma è solo, come dicevamo, magari esagerando, un cambio di logo, di distintivo sulle giubbe di questi contractor che lavorano a quelle parti, o quello che ci puoi descrivere è uno scenario diverso? E a questo punto raccontaci cosa sta succedendo. Ah, probabilmente la tua analisi è quanto mai azzeccata. Sicuramente si tratta di un cambio di logo, visto che intanto andrebbe specificato il fatto che Blackwater in quanto tale non esiste più. Esiste una società che si chiama US Training ed è quella che che ha sede e fa capo all'aspetto storico di Blackwater, che era un aspetto legato alla training di forze speciali, di polizia, di operatori di sicurezza privati e pubblici. Esiste poi una società che si chiama XE, che è invece una società dedicata alla fornitura di servizi, che è nuova di zecca, e che si propone di fare quello che fino a ieri ha fatto Blackwater, anche se il fatto che si dica in termini di amministrazione che quei contratti lì andranno a DynCorp e a Triple Canopy probabilmente significa sicuramente un segnale di discontinuità dato dall'amministrazione Obama. Oh, se io volessi fare una domanda, insomma, un po' da avvocato del diavolo, un po' da ingenuo, di questo tipo, cosa mi rispondi? A che cosa possono servire, da un punto di vista strategico, ma anche da un punto di vista proprio operativo vero e proprio, o dei contractor in un numero consistente, elevato, importante, in Afghanistan, allorché il focus, no, del Dipartimento di Stato americano nei mesi a venire si dovesse spostare da quelle parti? Quale sarebbe l'utilizzo di forze di questo genere? L'idea dalla quale si è partita è quella che determinati servizi potessero essere appaltati a realtà private dotate delle professionalità idonee, semplicemente perché quelle professionalità in ambito militare potevano essere destinate ad attività operative. Mi spiego ancora meglio: un team di protezione fornito da un reparto di forze speciali che si occupi della sicurezza di un diplomatico, anziché guardare le spalle al diplomatico, se anziché guardare le spalle al diplomatico fosse impiegato in attività operative, significherebbe una risorsa di carattere strategico in più sul terreno. Questo è stato il motivo per il quale si è pensato di demandare ad attori privati attività che fino a ieri erano in gran parte svolte da attori governativi, pubblici. Per concludere, mi sembra che, no, intanto piangere dell'economia mondiale, questo non sia un settore che in questo momento soffra particolarmente. Vorrei sapere da te, che ti muovi in questo ambito, se ci sono ancora e con quale consistenza operatori italiani coinvolti in questi scenari. Allora, operatori italiani per quello che riguarda noi ce ne sono. Va detto che un altro fronte al quale forse è il caso di accennare e che riguarda poi direttamente a Blackwater è quello di contrasto alla pirateria marittima. Noi siamo impegnati in un'attività di questo tipo nel Golfo, ma faccio fare una pirateria riflessione. Quella di cui leggiamo sui giornali, cronache avventurose, certo. Esattamente. E noi stiamo aprendo a Djibouti e in un altro stato del Golfo delle attività di questo tipo. Ma la cosa che dovrebbe far riflettere rispetto quindi attività di mare con attrezzature. Esattamente, okay. Esattamente, attività di supporto al personale navigante e agli armatori che transitano nel Golfo di Aden e che, nonostante il grande dispiegamento e il grande guizzare di muscoli attualmente proposto dalle marinerie mondiali, visti i costi delle missioni di questo tipo, è probabilmente insostenibile sul medio e lungo periodo. Quindi comunque si stanno attrezzando, come dire, motu propri. Ma tornando a quello che ti stavo accennando prima, consideriamo che un paio di mesi fa io a Londra ho incrociato negli uffici delle grandi compagnie di navigazione e di assicurazione degli emissari di Blackwater che tentavano, da quello che mi risulta, invano di vendere i servizi di una nave ex oceanografica che loro hanno acquistato e attrezzato, ecco. Che non riescono a vendere vista la reputazione. esattamente. Ho capito, va bene, grazie, molto interessante. Servizio di copertura, quindi di sicurezza per le navi in transito in acque non più sicure. Poi sono scenari veramente un po' fantascientifici, un po' da war game, che però pirateria, no? 21 secolo, cose che si connettono in modo trasversale in queste aree di crisi. Ci torneremo. rushing to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. Give back it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Assumendo contorni di discussione, se non di polemica internazionale, tutto ciò che ha seguito le dichiarazioni di Benedetto XVI, Papa Ratzinger, in volo per il Camerun, come ricordate abbiamo già dedicato un servizio alla questione, si è espresso attorno al tentativo di risolvere o comunque di contribuire alla risoluzione del problema dell'AIDS nell'Africa, che sta visitando in queste ore, comunque diffondendo l'utilizzo del preservativo. Secondo lui non è questa la strada corretta, e sull'argomento è tornato poi successivamente con una precisazione anche Federico Lombardi, il portavoce del Vaticano, dicendo che non bisogna aspettarsi dal viaggio in Africa del Pontefice un cambiamento in quella che è la posizione della Chiesa Cattolica verso il problema dell'AIDS. La Chiesa ritiene che sviluppare una ideologia di fiducia nel preservativo non sia una posizione corretta, non mette l'accento tutto ciò sul senso di responsabilità, che invece è la via da percorrere. Secondo la Chiesa di Roma, Padre Lombardi ha ribadito che ci sono tre direttive in cui dispiegare l'azione della Chiesa Cattolica verso l'AIDS: la istruzione appunto alla responsabilità nella sessualità, l'affermazione dei valori del matrimonio e della famiglia e l'impegno per cure efficaci e attenzione ai malati. Le reazioni non sono tardate, una particolarmente accesa è arrivata da parte del Ministero degli Esteri francese. La Francia ha espresso viva preoccupazione nei riguardi della lotta all'AIDS a causa di queste dichiarazioni. Benedetto XVI, dice ancora il Ministero degli Esteri francese, se non ci spetta esprimere un giudizio sulla dottrina della Chiesa, riteniamo che tali dichiarazioni mettano seriamente in pericolo le politiche sanitarie pubbliche e gli imperativi di tutela della vita umana. Anche l'immunologo Ferdinando Aiuti ha fatto un outing sulla questione, ha detto: penso che il Papa sia stato informato da cattivi consiglieri. La scienza ha dimostrato che l'utilizzo del preservativo sia un'arma fondamentale contro l'AIDS e tutte le malattie sessualmente trasmesse. Insomma, è una piccola, per fortuna incruenta, guerra culturale che si sta accendendo attorno a questa faccenda. Noi abbiamo pensato, cosa utile, un contributo in più, chiamare a testimoniare su questo discorso Mario Zamponi, che è un ricercatore dell'Università di Bologna, insegna storia, istituzioni dell'Africa. Lo salutiamo, buon pomeriggio Zamponi. Buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori. Ci possono servire da parte sua un paio di precisazioni di carattere generale per inquadrare meglio il problema. Io per esempio le vorrei porre una domanda, credo enorme, che dobbiamo per forza succintare in pochi minuti, ma se le chiedessi che cos'è l'AIDS in questo momento, che cos'è l'AIDS nell'Africa contemporanea, come ci può aiutare? Guardi, l'AIDS, dovendo appunto rispondere in poco tempo, direi che l'AIDS in qualche modo riassume una questione che non è solamente medica oggi in Africa, ma che apre un ventaglio di problemi di tipo sociali, politici e soprattutto economici. Mm-hmm. Questo perché l'AIDS è una malattia che si è diffusa molto nel continente della, africano e soprattutto in alcune aree, e che si collega al fatto che in genere la malattia produca ulteriori peggioramenti di vita per le popolazioni che ne vengono colpite. Molti di coloro che sono colpiti dalla malattia o le loro famiglie è molto probabile che diventino poveri se non lo erano già, o che diventino ancora più poveri. Per molti si perde l'accesso ai redditi e quindi attraverso questo anche a quella dignità sociale, a quella possibilità politica ed economica di emancipazione. Quindi l'AIDS oggi come problema medico e come problema legato allo sviluppo economico dell'Africa subsahariana. Oh, da molto tempo, almeno da diversi anni, l'Occidente, gli Stati Uniti, ma anche l'Europa, di volta in volta rinnova dei tentativi attraverso i governi e le organizzazioni dedicate a fornire un contributo, un aiuto, un miglioramento di questa situazione davvero grave, se è vero che il 67% dei sieropositivi del pianeta vive in questo momento in Africa. La questione che le vorrei porre è questo: è l'aiuto che si può dare, lei dal suo punto di vista è convinto che debba essere un aiuto pragmatico, magari così dal vago sapore colonialistico, come distribuire tanti preservativi e insegnare alle persone a utilizzarle, o si può seriamente sperare in un insegnamento invece o in una guida ai comportamenti, come auspica appunto il pontefice, che mi sembra se non altro una come dire, un'aspettativa, un piano sicuramente più ricco, più alto, ma anche estremamente più complesso, non pensa? Certo, no, ma infatti i programmi di intervento sull'AIDS, a parte che sono molto diversificati, ce ne sono di molti tipi da diversi donatori, però in generale non si limitano semplicemente ad alcune azioni, ma parlando in termini appunto così macro, appunto di tipo generale, tentano di intervenire su tutta una serie di cause strutturali, cioè non c'è semplicemente il fatto di ridurre qualche elemento epidemiologico, ma di poter offrire attraverso finanziamenti ad hoc e programmi anche di largo respiro degli interventi di tipo sociale, politico, culturale. Questo è comunque presente, però esistono profonde differenze naturalmente nei programmi, e soprattutto c'è un problema, anzi due problemi in realtà, uno più strutturato e uno molto contingente. Il primo è che occorre che questi programmi riescano, e infatti dove sono riusciti a farlo ci sono stati risultati positivi, a rafforzare le politiche sanitarie pubbliche. Certo. Questo è sicuramente un aspetto importante. Ossia, in sostanza insegnargli a fare da soli in un certo senso? Sì, cioè comunque sì, fare da soli, o comunque far sì che la struttura sanitaria dei paesi riceventi riescano poi in qualche modo a far fronte almeno a parte delle esigenze che derivano dalle epidemia dell'AIDS. Questo è un primo punto, cioè il fatto che occorra che i programmi di sviluppo non siano fini a se stessi nel senso di rispondere a un'esigenza dei donatori, ma di far sì che impattino attraverso un rafforzamento di strutture nazionali, di strutture interne, certo, che intervengano sulla malattia a tutti i livelli, certo, dalla prevenzione alla cura, al sostegno sociale per coloro che vengono marginalizzati in quanto, come ho detto prima, si impoveriscono. Questa è una questione cruciale. Certo. Molte delle persone che hanno l'AIDS, se non sono già povere, lo diventano. Certo. E quindi l'AIDS assume un connotato più ampio di quello del mero aspetto epidemiologico. L'altra questione più contingente è che, poiché molta della progettazione sull'AIDS dipende solo dai donatori, temo ci possa essere il rischio che nella recente crisi finanziaria, economica internazionale, una serie di questi programmi possano subire dei rallentamenti, certo, o delle trasformazioni. Certo. Quindi le due cose in qualche modo si collegano, nel certo senso che occorre sempre di più che i programmi di sviluppo sull'AIDS possano poi essere assorbiti all'interno di politiche nazionali e che intervengano anche su altri ambiti, anche di tipo medico. Faccio un esempio. per combattere la tubercolosi in alcuni casi non è così assodato se si sta curando un malato semplicemente di tubercolosi o se sia un malato anche sieropositivo. Potrebbero essere dei casi in cui magari non lo si sa perché non si è potuto fare gli esami o comunque non è così rilevante, cioè nel momento in cui le strutture sanitarie non possono far fronte alla tubercolosi è evidente che si apre una tensione molto forte più generale nella cura dell'AIDS. Va bene, la ringrazio. Mario Zamponi, vi ricordo, un ricercatore dell'Università di Bologna dove insegna storia e istituzioni dell'Africa, un contributo in più a quello che si sta, come dicevamo in apertura, già delineando come forse il focus principale di dibattito nell'ambito di questa missione di Papa Ratzinger in Africa. C'è peraltro anche un intervento americano sulla questione, appena uscito su CNN, parla Roland Martin, un saggista, anche un pastore della chiesa afroamericana, prende posizione in contrasto con quanto espresso da Benedetto XVI, dice è sbagliato, dice Martin, condannare l'uso del preservativo, dovrebbe invece supportare questo uso ed eventualmente fare una propria politica di astinenza, ma non scoraggiare dall'uso dello strumento finora che si è dimostrato finora più efficace. Jefferson 2, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia oggi Valerio Rocchetti a Roma e Fabio Cantadori a Milano. La mail jefferson2@radio24.it, le solite due pagine Facebook ormai coperte di gloria e di chiacchiere da parte nostra e vostre, redazione Jefferson 2 per parlare con noi, Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself per partecipare ai nostri quotidiani dibattiti e focus. Iscrivetevi numerosi, ascoltate se volete il programma in replica alle 24 in podcast sul sito della radio oppure alle 16, come sempre attorno alle 16 domani dal vivo qui su Radio 24. Jefferson 2, l'arte della svolta.